I numeri innanzitutto: sono 54.000 i positivi, 8.300 i guariti, 6.800 i morti, ma per il terzo giorno consecutivo il numero di nuovi casi è in calo, ossia la percentuale di crescita continua ad abbassarsi. Al centro della scena ci sono i nuovi provvedimenti presi dal governo: multe fino a 3.000 euro per chi viene trovato fuori senza giustificazione valida, che si alzano se si viene trovati in macchina. Stop di un mese ad aziende e negozi che restino aperti senza motivo. A proposito di aziende aperte, resta una certa tensione su cosa deve chiudere e cosa no, mentre oggi ci sarà un nuovo incontro tra governo e sindacati. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, care amiche, cari amici, in questo mercoledì 25 marzo alle 6:30 minuti a iniziare ancora una volta questa puntata di 24 Mattino con quello che abbiamo deciso essere il nostro inno. Un inno che non serve a dire che va tutto bene, serve semplicemente a darci coraggio e a dare coraggio alle tante persone che sono in ascolto e che lavorano, i molti operatori sanitari che in questo momento si stanno muovendo per andare in ospedale o stanno tornando da un turno massacrante, i camionisti che trasportano il cibo, il materiale sanitario nei posti nei quali questi prodotti servono, le cassiere, i cassieri dei supermercati, i magazzinieri, insomma, che sta consentendo a questo paese di andare avanti. Il nostro Bob Marley che ci dice: tutte le cose andranno bene a un certo punto, naturalmente. Vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, soprattutto gli WhatsApp audio, le vostre voci da questa situazione, che siate in casa a lavorare, che siate in casa a far nulla, ad aspettare, che siate in casa a preoccuparvi o che siate in giro per lavoro perché dovete lavorare. Le vostre preoccupazioni, le vostre paure, ma anche le vostre speranze sono le benvenute come sempre. Con Peter Bescapè in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Ci siamo. E direi che oggi potremo iniziare sicuramente dalla nuova stretta del governo. Una stretta del governo che passa, è un po' il titolo di tutti, no? Da questa multa, maxi multa per chi viene trovato in giro senza giustificazione. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Abbiamo introdotto una sanzione, una multa, il pagamento che va da 400 euro a 3.000 euro, secondo le multe proprie che tutti quanti conosciamo, quando ci sarà capitato qualche volta di violare le regole del codice della strada. Quindi d'ora in poi alla sanzione attualmente prevista, alla contravvenzione attualmente prevista, si sostituisce questa sanzione pecuniaria, questa multa, ripeto, da 400 a 3.000 euro. E al di là della stretta, dice il Presidente del Consiglio, gli italiani sono stati bravi. La stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole e che comportano anche delle nuove abitudini di vita. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi, perché come ho sempre detto dall'inizio, tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per affrontare questa emergenza e per poterla vincere e poterci rialzare quanto prima. Rialzare dunque quanto prima, ma quando? Quando? È quello che si chiedono tutti. C'è questa scadenza del 31 luglio che però, come ormai abbiamo imparato a capire dopo un primo allarme di ieri, è la scadenza del periodo di emergenza proclamato il 31 di gennaio, quindi non è il momento nel quale finirà tutto, dice Conte che probabilmente finirà prima, naturalmente. Di certo gli ultimi dati che stanno arrivando sono dei dati che consentono un cautissimo ottimismo. È il trend di crescita dei contagiati. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che la percentuale con la quale cresce il numero di contagiati si abbassa progressivamente. Sarebbe un segnale da interpretare come una frenata dei contagi, una progressiva frenata dei contagi. Ripeto, massima cautela su questo, Però sentiamo il presidente della regione Lombardia, Fontana. Per quanto riguarda i numeri, siamo sostanzialmente nello stesso trend dei giorni scorsi. Ci sono degli aumenti, ma sono aumenti molto limitati rispetto a quello che è avvenuto nella scorsa settimana. Pare si stia stabilizzando un trend di crescita molto più limitato rispetto a quello che c'era alcuni giorni fa. E un abbraccio tra gli altri a Diego da Bergamo e quindi dal luogo centrale in queste ore di questa crisi, che dice: sto andando al lavoro, guido un autobus su una tratta morta, me ne andrò in giro tutto il giorno da solo. Così è, cari. Un abbraccio a lui e a tutti gli altri. Un altro luogo nel quale la situazione è sempre più difficile in queste ore è Piacenza. È un luogo che negli ultimi giorni abbiamo forse un po' sottovalutato, un po' tutto il mondo dell'informazione ha sottovalutato, non ha acceso abbastanza i riflettori su quello che stava succedendo. Travolti naturalmente da quel che sta avvenendo a Bergamo e Brescia, dove i numeri sono ovviamente molto alti anche di vittime. E però, Piacenza sta appunto vivendo una situazione estremamente difficile. Noi siamo con Luca Baldino, che è il direttore generale della ASL. Buongiorno Baldino, benvenuto ai nostri microfoni. Ascoltatori. Ci dà un quadro della situazione innanzitutto? Piacenza è subito a ridosso di Codogno, quindi è stata coinvolta fin dall'inizio, pochi giorni dopo che la situazione è cominciata a Codogno, ed è una situazione di forte criticità. Noi abbiamo una provincia che è abbastanza piccola, che fa 300.000 abitanti, siamo a quasi 2.000 contagiati e soprattutto abbiamo un alto numero di decessi, perché a ieri eravamo arrivati a 377 decessi. 377, tanto che insomma si sono presentati dei problemi simili a quelli che abbiamo visto a Bergamo, no? Abbiamo visto, non si sapeva dove mettere le bare. C'è stato un problema con il forno crematorio che aveva difficoltà a esaurire il numero delle salme, e quindi sì, si sono accumulate. Adesso il problema sta venendo risolto, quindi non nelle dimensioni di Bergamo, però qualcosa di simile, sì. Come vi state muovendo? So che la regione ha istituito una quasi zona rossa, no? Nella vostra area, ma come vi state muovendo voi all'interno? Come vanno le cose negli ospedali soprattutto? Perché insomma lei di quello si occupa, le terapie intensive, a che livello sono, quanto sono piene? Allora, noi penso un po' come hanno fatto molti altri, abbiamo fin da subito gradualmente incominciato a trasformare tutta una serie di reparti e poi di ospedali in reparti Covid. In questo momento abbiamo 740 letti Covid, comprese terapie intensive, tenga conto, su una rete ospedaliera che in questo momento conta 900 letti, quindi praticamente l'intera rete ospedaliera è stata trasformata in rete Covid. due ospedali piccoli, Fiorenzuola e Castel San Giovanni, sono Covid, quello di, un po' più grande di Piacenza è praticamente solo Covid, e anche le cliniche private. Siamo riusciti in breve, in 10 giorni, a triplicare i posti letto di terapia intensiva. La dotazione standard nostra era di 15, siamo arrivati a 44. Sono tutti i posti letto sono pieni, le terapie intensive sono piene. Per fortuna Piacenza può contare sull'intera rete regionale dell'Emilia Romagna, in cui non sono ancora, per fortuna il virus non è ancora arrivato, a Parma sì, ma non nelle altre province con lo stesso impatto, e quindi molti pazienti vengono poi collocati anche sulle terapie intensive di altre aziende della regione. Quindi in sostanza siete in saturazione, Baldino, dal punto di vista delle terapie intensive, però ci dice lei, insomma, c'è il resto della rete regionale, almeno per il momento, e speriamo che duri, perché le misure di contenimento, qualche effetto, lo state vedendo qualche effetto delle misure di contenimento da voi oppure no? Allora, noi da un paio di giorni, 2 o 3 giorni, abbiamo un segnale importante, molto importante, che è quello della riduzione degli accessi di pronto soccorso, che per noi è il primo segnale, il più immediato, molto più significativo anche dei positivi, che dipendono anche dai criteri con cui vengono fatti i tamponi, soprattutto dalla capacità dei laboratori di processare i tamponi. Quindi da 2 o 3 giorni gli accessi in PS, in pronto soccorso, sono leggermente in calo, e questo è un segnale molto importante, perché vuol dire che sostanzialmente che le misure che sono state prese dal governo e che si è incominciato ad applicare 14 giorni fa, a Piacenza un po' prima, a dire la verità, perché fin dal secondo giorno si è fatta la chiusura delle scuole, fin dal lunedì 23, vuol dire che stanno incominciando ad avere gli effetti. Attenzione, che questo assolutamente non vuol dire che la situazione si sta normalizzando. A Piacenza la situazione è quanto di più lontano possibile ci sia dalla normalità, e deve essere un segnale per dirci di andare avanti con quello che stiamo facendo. Assolutamente non possiamo abbassare la guardia, la gente deve continuare a restare in casa. Sì, è quello che diciamo sempre, tra l'altro, Baldino, insomma, anche perché poi, insomma, tra gli altri elementi, cioè, noi non lo ricordiamo abbastanza spesso, no? Lei ci parlava di ospedali completamente convertiti, noi non lo ricordiamo abbastanza spesso. Ovviamente più si esce, più c'è il rischio di un infortunio, di una situazione problematica di qualche tipo, e chiaramente l'accesso agli ospedali in questa situazione diventa molto complicato, no? Bravo, questa è una cosa che va evidenziata. Come diceva, noi praticamente l'intera rete ospedaliera è convertita a Covid, vuol dire che in questo momento sull'intera provincia di Piacenza sono rimasti poco meno di 200 letti dedicati a tutto il resto, a tutte le altre patologie. È vero che stiamo registrando un calo importante anche delle urgenze, alcune facilmente spiegabili, come la traumatologia, è ovvio, la gente non esce, non va in macchina, ci sono meno traumi. Altri meno facilmente spiegabili, come per esempio la chirurgia d'urgenza, però le persone devono sapere che in questo momento la rete ospedaliera non si trova assolutamente in una situazione di normalità, e quindi anche la gestione delle patologie normali, passatemi questo termine, può essere più difficoltosa. Quindi ancora più attenzione nel non mettersi in condizione di dover venire in ospedale. La ringrazio. E in questo ovviamente l'isolamento e restare a casa aiuta, perché certo, per evidenti motivi. Ovvio. Grazie Luca Baldino, direttore generale della ASL di Piacenza, per essere stato con noi. Che altro in questa giornata che forse ho saltato prima nella premessa? Allora, il fronte economico sicuramente, ossia... Ieri l'incontro tra i ministri europei delle finanze, si è discusso dell'uso del fondo salva stati, è tutto rimandato al vertice di domani tra i capi di Stato e di Governo. E c'è l'Olanda che fa un po' di resistenza, lo abbiamo raccontato, perché? Perché fa resistenza, dice, per l'uso del fondo salva stati ci vogliono delle condizioni, bisognerebbe imporre delle condizioni ai paesi. Vedremo che cosa emergerà domani, nell'incontro di domani. La questione delle aziende aperte, come si diceva, resta una certa tensione su cosa deve chiudere e cosa no. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra governo e sindacati, si cercano di scongiurare gli scioperi dei metalmeccanici, così ieri Landini. È essenziale, secondo lei, oggi produrre un trattore? È essenziale oggi andare in una fonderia, o è essenziale fare in modo, così come sta già succedendo, che milioni di persone, dalla sanità ai trasporti, a chi ci dà da mangiare se andiamo, ci vende il cibo se andiamo in un centro commerciale. Perché in questa fase fare attività che mettono a rischio la salute delle persone e allo stesso tempo non sono essenziali per combattere il virus? Il tema è un po' quello di... sempre quello, è quali attività chiudere, quali attività lasciare aperte. Spiega il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che proprio partendo dall'esempio del trattore dice: guardate che non è così facile definirlo. Quanto ai trattori, non è che noi diciamo che bisogna costruire trattori, anche perché nessuno li compra, ma bisogna mettere in condizione quelle imprese di produrre il pezzo di ricambio dei trattori che riguarda l'agricoltura, che riguarda i beni, i prodotti e servizi che arrivano nei supermercati. Questa è la logica che noi stiamo portando avanti, non c'è alcuna pressione, anche perché non c'è nulla da produrre, visto che nessuno compra nulla. Quindi non è che noi siamo impazziti che vogliamo produrre per forza per gli esercizi commerciali chiusi. Stiamo ponendo una questione di buonsenso e di realismo che non riguarda questo aspetto. Poi ci può essere il caso particolare di chi vuole aprire per forza, ma quello è un altro caso, ci penseranno i prefetti e le regole a tenerli chiusi. Come diciamo da qualche giorno, nel decidere quale attività è essenziale e quale non è essenziale, è tutto un po' più complicata, un po' più complicato di come viene messo e di come lo immaginiamo anche normalmente. Uno dice l'industria alimentare, però l'industria alimentare per esempio si porta dietro mille altre attività. Pensate solo al fatto che l'industria alimentare processa del cibo, lo fa con dei macchinari, questi macchinari hanno bisogno di assistenza. No, non così semplice. Traffico. Mattino. Allora, cosa abbiamo lasciato indietro? Abbiamo lasciato indietro un po' di ragionamento sull'estero, dove la situazione più grave, senza ombra di dubbio, in queste ore è in Spagna, dove i numeri continuano a crescere, dove abbiamo visto le immagini delle persone sdraiate sui materassi nelle corsie degli ospedali, dove il più alto tributo di vittime lo sta pagando la capitale, Madrid, dove, raccontano oggi i giornali, negli ospizi ci sono gli anziani che dormono accanto a persone che sono già morte. La situazione degli ospizi, delle case di riposo, tra l'altro è difficile anche in Italia, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi e lo sapete perfettamente. Poi ci sono gli Stati Uniti che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rischiano di diventare il prossimo centro dell'epidemia. Anche là i casi sono in costante crescita. Trump dice il paese non è da shutdown. Our country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this. It was not built to be shut down. Questo, dice Trump, non è un paese fatto per essere chiuso. E poi c'è la Gran Bretagna, con questa sorta di giravolta nella strategia alla quale abbiamo assistito nei giorni scorsi. E un po' sulla strategia, un po' soprattutto sulla situazione che si sta vivendo in Gran Bretagna, abbiamo raggiunto Giuseppe Chito Fusai, che è presidente della Italian Medical Society in Gran Bretagna, della Gran Bretagna. Buongiorno Fusai, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Ci dà un quadro della situazione ad oggi su come vanno le cose anche negli ospedali? La situazione qua probabilmente è, come avete sentito, come vedete anche dai media, di un paio di settimane almeno indietro rispetto all'Italia. E non prevedono che sia una situazione analoga a quello che è successo. E la curva di aumento del numero dei decessi è prevedibile che sia ancora più ripida forse rispetto a quello che è successo in Italia. A due settimane da quello che era. E la previsione, mi scusi, la previsione. È maggiore. Mi sente? Maggiore, ma direi analoga a quello che è successo in Italia. Questo è quello che gli epidemiologi prevedono qua in Inghilterra. Questo anche perché, mi scusi, di fatto non si è intervenuto, cioè pur avendo sotto mano l'esempio dell'Italia si è detto o si è scelta un'altra strategia, ma anche non con una direzione precisa, mi sembra di aver capito, insomma senza che, e poi si è cambiata idea, di fatto permettendo al virus di circolare. Questo approccio è stato estensivamente criticato. Però è anche vero che, credo, nella maggior parte dei paesi europei l'approccio a queste epidemie è gestito sulla base, gestito ovviamente dal governo, ma è gestito sulla base di modelli epidemiologici che sono fatti in maniera da prevedere, ma anche da aggiustare e da cambiare a volte il comportamento e l'atteggiamento e le direttive che il governo rilascia. È vero che due settimane fa il governo britannico aveva anticipato quella che era la herd immunity, quindi di cercare di fare in modo che la maggior parte delle persone potesse essere contagiata in maniera da sviluppare un'immunità di massa e quindi ridurre le possibilità di contagio, perché più sono immuni e meno è facile che altri si ammalino. Sì. Da questo hanno cambiato e sono arrivati a quello che è ieri sera, in pratica, un lockdown più severo, dove la gente può uscire solamente, non con autocertificazione come in Italia, ma può uscire solamente per ragioni o sanitarie o per fare shopping, cioè per comprare roba da mangiare, sì. E anche per una forma di esercizi al giorno, questo il primo ministro ha dichiarato. Sì. Quindi, che è quello che abbiamo fatto noi all'inizio, in sostanza. Esattamente. E poi bisognerà vedere nei prossimi giorni che cosa, come cambia. Io lavoro in ospedale, sì. E la situazione sta evolvendo, sta cambiando. Lavoro in uno dei due centri di lezione per le malattie infettive di Londra, il Royal Free Hospital. La situazione sta cambiando progressivamente, ora per ora, quindi bisognerà vedere in che modo e quanto riesce a contenere la situazione qui. Sì. Allora, io intanto la ringrazio, Giuseppe Chito Fusai, e mi riservo magari di chiamarla nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per farci dare un aggiornamento da lei. Se vuole essere nostro ospite un'altra volta sarà un piacere. Le auguro una buona giornata. Un piacere. Se mi dà soltanto un secondo per dire una cosa. La Italian Medical Society, sì. In collaborazione con il consolato italiano, sì. A Londra, e con il dottore Londra, ha formato una task force per gli italiani che vivono all'estero, che sono particolarmente utile anche per gli italiani che hanno figli o parenti in Inghilterra, sì. Un punto di riferimento, di informazione. Allora, facciamo una cosa, Fusai. Dico agli ascoltatori che avessero parenti in Gran Bretagna, ma anche ai molti italiani in Gran Bretagna che ci ascoltano, perché ne abbiamo, che ci ascoltano via web, che insomma c'è il sito, immagino, no? Della Italian Medical Society of Great Britain, e là possono trovare qualche informazione. Fatemi chiudere, assolutamente, però. Assolutamente su www.imsogb.com. Perfetto, perfetto, grazie. Grazie Fusai, alla prossima. Allora fatemi chiudere invece con un po' con una bella storia, con un po' di belle storie, perché sono tante le iniziative aziendali in queste ore, insomma non solamente aziendali, anche di singole persone, le donazioni, Benetton, Berlusconi, i Caprotti, case per medici e infermieri offerte da Airbnb, The Best Rental, Tido, eccetera eccetera, Menarini che dona gel disinfettante, Novartis 130 milioni di dosi di un antimalarico, Angelini, Gucci, tutti quanti, insomma. E poi abbiamo pescato questa storia in una fase di carenza di mascherine, per quanto il commissario Arcuri ieri abbia detto ne stiamo recuperando molto rapidamente, di un'azienda, il gruppo Oberalp, che è quello di Saleva, per intenderci, che di fatto sta riuscendo a realizzare un'importazione monster dalla Cina. Christoph Engel ne è l'amministratore delegato. Buongiorno Engel. Buongiorno a tutti. 15 milioni di mascherine in arrivo? Sono anche di più, sono 20 milioni. 20 milioni di mascherine. Di cui ieri abbiamo potuto già importare una prima tranche, non si tratta soltanto di mascherine ma anche di camici protettivi, asettiche e non asettiche, tramite il nostro partner che è Xiamen, che è una città cinese milionaria nel sud della Cina. Siamo riusciti a aprire i canali dove di solito stiamo importando abbigliamento per la montagna, per i nostri marchi Saleva e Dinafit. Siamo riusciti adesso a diventare importatori in un 4848 di materiale sanitario che è necessario molto di più che adesso le giacche delle nostre marche. Ah beh, sicuramente, insomma, anche perché non si vendono in questo momento, immagino, le giacche. Senta, no. Senta una cosa, allora, 20 milioni di mascherine in arrivo, tra l'altro con un supporto da parte del governo austriaco e di Air Austrian, che ha fatto atterrare degli aerei a Bolzano, ho capito bene? Sì, è giusto. In prima di tutto bisogna capire che è guerra economica sulle mascherine, ma anche sulle capacità del trasporto cargo aereo. E quindi su questo ci siamo fatti un'idea per essere più veloci, e quindi abbiamo potuto convincere, col supporto del governo austriaco, l'Austrian Airlines, di utilizzare due Boeing 777, che di solito sono usate soltanto per il trasporto passeggeri, per essere utilizzati per il trasporto della nostra merce sanitaria. E quindi su tutti i sedili di questi voli non sono stati seduti le persone, ma ci sono state i cartoni con le mascherine dentro. E quindi per questo abbiamo portato con due aerei 1.500.000 mascherine di una prima tranche, di quell'ammontare gigantesco di 20 milioni, e anche 50.000 tutte protettive. Questo perché dobbiamo fornire con emergenza un po' le zone altoatesine, la provincia autonoma di Bolzano, il Tirolo del Nord e anche logicamente il fabbisogno della protezione civile di Roma. Quella invece in pochi giorni, con un aereo che è il più grande che esista sul cargo del mondo, un Antonov, che può caricare aerei dentro e quindi ha una capacità di 1.000 metri cubi, sì, porterà i rimanenti 15.000 mascherine. 15 milioni, sì. 15 milioni di mascherine. Sì, prego. 15 milioni di mascherine all'inizio della prossima settimana. Però nel frattempo abbiamo già ordinato un altro volo che adesso è già partito per Xiamen, per portare di nuovo una prima tranche di 2,5 fino a 3 milioni di mascherine già questo giovedì, che atterreranno a Roma alle 17.30 questo giovedì. Grazie Christoph Engel. Quindi 20 milioni di mascherine in arrivo, amministratore delegato del gruppo Oberalp, una delle tante iniziative aziendali. Beh, la cosa che ci ha colpito di questa iniziativa è il numero, 20 milioni di mascherine. E chiudiamo come sempre con il nostro inno, con il nostro Bob Marley, che ci fa coraggio e ci dice che tutto a un certo punto andrà bene. Le vostre voci come sempre al 349-238-6666, i messaggi WhatsApp. Ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.